farfalle nel cielo, il sole sul viso. Saltare con la tua mano tra le ginestre, sentire la brina bianca sulle mie guance. Per ogni carezza e bacio d'amore.